voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Well, a wiser fellow than myself once said, sometimes you eat the bar and much obliged. Sometimes the bar while he eats you. I found something crying, it was my soul. I fed it milk so it wouldn't grow old. We crossed the borderline at dawn and woke up in a field of corn. The farmer told me I was late. I better start oiling the gate. He said that those who rush up. Sempre c'è il blocco pubblicitario a intervallare la prima e la seconda parte di Eclettica di ogni giorno. Prima di quel blocco ci siamo ascoltati a Was a Cub Scout e in chiusura Toys Orchestra. Si ritorna, visto che con gli I Was a Cub Scout eravamo in Inghilterra, si torna appunto in quella Inghilterra con i Guillemots, band che abbiamo ascoltato con Any Let's Not Wait, e con l'Inghilterra anche dei Maps, band che stiamo invece per ascoltare. Questa è To The Sky. avevamo ironia, però, in fatto di ragazze. Non c'era stato tempo. Un attimo non esistevano, almeno non in un qualche modo per noi interessante, e l'attimo dopo non potevi evitarle. Erano dappertutto, erano ovunque. Un attimo avevi voglia di dargli una botta in testa perché erano tua sorella o la sorella di qualcun altro, e l'attimo dopo volevi... In realtà non sapevamo mica cosa volessimo dopo, ma era qualcosa... Quasi all'improvviso, tutte queste sorelle, non esisteva altro tipo di ragazze, non ancora, erano diventate interessanti, persino inquietanti. Vedi, noi non eravamo tanto diversi da prima. C'era venuta la voce stridula, ma la voce stridula non è un grande aiuto. Ti rende ridicolo, indesiderabile. E i peli che ci stavano spuntando sul pube erano il nostro segreto, un segreto strettamente conservato fra noi e i nostri slip. E sarebbero passati anni prima che un membro del sesso opposto verificasse che erano proprio dove dovevano essere. Le ragazze, invece, tutto ad un tratto avevano il seno, e insieme a quello un nuovo modo di camminare con le braccia incrociate sul petto, un atteggiamento che nascondeva e allo stesso tempo evidenziava quanto era appena accaduto. E poi, ecco, trucco e profumo, sempre da quattro soldi, e usati in modo inesperto, a volte persino comico, ma comunque un segno piuttosto terrificante di come le cose fossero andate avanti a nostra insaputa, senza di noi, al di là di noi. Questo era ancora l'incipit di Alta Fedeltà di Nick Hornby. Near the In-N-Out Burger. Oh, the In-N-Out Burger's on Camrose. Near the In-N-Out Burger. Those are good burgers, Walter. Shut the fuck up, Donnie. I'm so innocent and I am. Oh, C'è una lunga sequenza di brani che vi devo presentare. Beh, più che di brani, di artisti, perché poi per il dettaglio dei brani vi rimando alle playlist che potete trovare o su myspace.com/eclettica oppure ricevere direttamente nella casella di posta se iscritti alla lista nera, ed è semplice farlo, mandare un'email a giulio@radiorockfm.com. Lunga sequenza di artisti iniziata con un estratto da quello che finalmente sarà il primo album di lunga durata da parte di Lavender Diamond, poi seguiti dai Giardini di Miro e infine ci siamo appena ascoltati i Sister Vanilla. Ed ora invece uno dei nomi nuovi su cui in questa stagione di Eclettica stiamo sicuramente puntando, ovvero sia quello dei Windmill. Thank you. cominciai a uscire con una di queste ragazze. No, non è esatto, perché io non ebbi alcuna parte nella decisione. Ma nemmeno posso dire che lei cominciò a uscire con me. Il problema sta nell'espressione uscire con, che sottintende una sorta di parità ed uguaglianza. Invece, ciò che accadde fu che Allison, la sorella di David Ashworth, si staccò dal capannello femminile, che si raccoglieva tutte le sere vicino alla panchina, e mi adottò, mi mise sotto la sua ala e mi portò via dal dondolo. Adesso non riesco più a ricordare come fece. Credo che lì per lì nemmeno mi resi conto di quanto stava succedendo. Ricordo infatti che a metà strada verso il nostro primo bacio, il primo bacio della mia vita, provai una sensazione di totale sbigottimento. Non mi capacitavo che Allison Ashworth e io fossimo diventati tanto intimi. Non sapevo con precisione nemmeno come fossi finito dalla sua parte dei giardinetti, lontano da suo fratello, da Mark Godfrey e dagli altri, né come ci fossimo allontanati dal gruppo delle sue amiche, né come lei avesse avvicinato la sua faccia alla mia, facendomi capire che dovevo mettere la mia bocca sulla sua. Tutto l'episodio è al di là di qualsiasi spiegazione razionale. Ma le cose andarono proprio così e si ripeterono, pressoché uguali, il pomeriggio dopo e quello dopo ancora. Questo era ancora l'incipite di Alta Fedeltà di Nick Horby. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 33, volume numero 4. Indice, The Shins, Larrick in Love, Alex Delivery, I Was a Cub Scout, A Toys Orchestra, Guillemots, Maps, Lavender Diamond, Giardini di Miro, Sister Vanilla, Windmills.